È scritto nelle fonti della Rizal, che è una fonte chiaramente cabalistica, ma questa è una indicazione, la seguente, che è citata nei poskim, nei commentatori del Shulchan Aruch, è riportata nell'Alaha, e dice che chiunque è attento al minimo, all'evitare il minimo chametz, la minimissima misura di chametz, mashehu significa senza misura, la più piccola misura possibile di chametz durante Pesach, dal cielo lo si aiuta a non peccare tutto l'anno. Tutto l'anno. Cioè quello che noi facciamo a Pesach, per ciò che riguarda l'attenzione al chametz, è una berachà, è una grande berachà, è come un aiuto dal cielo, dice la Rizal, per aiutarci ad evitare tutti gli altri peccati tutto l'anno. Di conseguenza possiamo capire un po' meglio l'attenzione che effettivamente facciamo, che sembra anche a volte esagerata, per ciò che riguarda il chametz. E prima della sera del 14 di Nissan, cioè la sera della vigilia del Seder di Pesach, quindi il Seder di Pesach è la sera che diventa il 15 di Nissan, il 14 è la sera prima, entro quella sera bisogna assicurare che tutta la casa sia pulita dal chametz e che non ci sia neanche il lontano sospetto della presenza di qualche chametz da quel momento in poi fino a tutta la durata dei giorni di Pesach. Bisogna anche controllare, non solamente la pulizia deve interessare non solamente l'ambiente nel quale si vive, in generale l'indicazione è ogni luogo in cui potrebbe arrivare del chametz o ha senso metterci del chametz va controllato, va pulito. Luogo dove non dovrebbe esserci mai essere messo chametz non deve essere pulito perché si presume che non ci sia. Qual è il luogo in cui è normale che ci sia chametz? Dipende dal contesto, perché se ci sono bambini, allora tutti i luoghi è normale che ci sia chametz. Se non ci sono bambini, allora ci sono molti luoghi, effettivamente, come l'armadio delle cravatte, che magari lì il chametz non c'è. Però per dire, ognuno deve capire secondo il proprio contesto. Anche. Seconda cosa, vanno controllate le tasche. Ogni tanto uno esce dal tempio e si mette un cornetto in tasca, no? le tasche, soprattutto dei bambini. E gli zaini dalla scuola, che è molto importante controllare e pulire che non ci sia chametz. Tutto questo va fatto, tutta la pulizia va fatta prima della sera del 14, nel nostro caso quest'anno, giovedì sera prossimo. Ora, quando arriva quella sera, allora scatta l'obbligo della bedikat chametz, cioè il controllo, la ricerca del chametz alla luce di candela. Il momento in cui scatta questo obbligo è subito all'uscita delle stelle, quindi quando diventa notte. Già da prima, è circa più o meno una ventina di minuti, un po' di più dopo il tramonto. Già da prima, circa mezz'ora prima, non ci si mette a tavola a mangiare, non si fanno altre cose, neanche si mette a studiare Torah approfonditamente, perché per il pericolo, tra virgolette, di perdere il momento e di dimenticarsi o di farlo tardi. E quindi, se qualcuno ha molta fame e deve mangiare qualcosa, può mangiare, ma non, se si tratta di fare nascei, non più della misura di kabeitza, cioè il volume di un uovo che è più o meno una cinquantina di grammi, non più di questo, anche se solo un dolce o qualcosa di questo genere. Frutta e verdura è permesso anche di più. Bere tè o caffè non c'è problema, però qualcosa che ci è considerata più fissa, come abbiamo detto, è già vietato da una mezz'oretta prima dell'orario dell'abdikat chametz. Questo riguarda non solamente mangiare, studiare Torah, ma anche lavorare, ok? Se uno si mette a lavorare, sappiamo benissimo, possiamo metterci a lavorare al computer e ci sediamo, non sappiamo quando ci alziamo. No? Allora questa è una cosa molto comune. E allora, ecco, capiamo il motivo di questa halakha. Quando arriva il momento dell'abdikat chametz, come bisogna comportarsi? Allora, riguardo la tefilah di Arvit, è bene fare la Bedikat Hametz prima di Arvit. Se è arrivato il tempo di Arvit e ancora non hai fatto la Bedikat Hametz, allora fai prima l'Arvit e poi fai la Bedikat Hametz, a meno che c'è anche qualcun altro lì che te lo può ricordare, ok? Digli, non a meno che, soprattutto se c'è qualcun altro lì, digli ricordami dopo la tefilà di fare subito Bedikat Hametz. Chi stava viaggiando è arrivato a casa proprio la sera del 14 e dice: io adesso sono arrivato da New York o dal Paraguay o quello che è. Uno che arriva da un volo, da un lungo viaggio, deve un attimo stare tranquillo, farsi una doccia, mangiare qualcosa, non riesce a concentrarsi bene sul controllo, sulla bdikà, sulla ricerca del Hametz. E allora dice: io adesso sono troppo stanco per farlo bene. È permesso per lui fare un piccolo pisolino, prendere un piccolo riposo. Basta che ci sia qualcun altro a casa che abbia l'incarico di svegliarlo e di ricordargli in tempo di per controllare il Hametz, per fare la ricerca del Hametz. Dico controllo perché bdikà letteralmente significa controllo. La ricerca del Hametz è... questo solamente se siamo ancora verso l'inizio della serata e della sera, della notte. Ma se già è tardi, è già l'uscita delle stelle, già la notte è calata 2-3 ore fa, quindi nel nostro contesto diciamo sono già le 9, le 10 di sera, allora in quel caso non vada a dormire perché lì c'è il pericolo che si sveglia la mattina e non subito la sera per fare l'abdikat hametz, e quindi deve subito fare l'abdikat hametz nonostante abbia questa stanchezza addosso, diciamo così. Prima di fare la Bdikat Hametz, noi recitiamo una Berakha. Qui vorrei fare una piccolissima premessa. Molte domande che la gente chiede, e lo dico soprattutto anche a coloro che ascoltano la registrazione, molte domande che si fanno circa la liturgia e ciò che bisogna recitare nel Kiddush, nell'Avdalah, soprattutto quest'anno che Pesach e Shabbat vengono insieme, perché il primo seder è venerdì sera, il secondo sera è sabato sera, quando normalmente si fa l'Avdalah, eccetera. Allora la gente si chiede: ma devo fare il Kiddush di Shabbat, o devo fare l'Avdalah, o come devo fare? Apri la Haggadah di Pesach e segui le istruzioni. Sulla Haggadah di Pesach è scritto: se è venerdì sera, aggiungi questo brano. Se sabato sera, aggiungi questo brano. Tutto molto, in ogni edizione della Haggadah, anche quelle non spiegate al massimo, hanno queste indicazioni. Ed è molto molto semplice, perché sia il primo che il secondo seder, stavamo parlando del Hametz, però con l'occasione faccio questa premessa, sia la prima sera che la seconda sera, quindi i primi due, entrambi i sedarim, che sono un pochino diversi perché venerdì sera e sabato sera, in realtà è già predisposto nella Haggadah, nell'ordine del seder, è una ripetizione, il seder del seder, l'ordine del seder, che come bisogna fare. Non pensare allo Shabbat normale o al sabato sera normale, è tutto incorporato nella Haggadah. Fai solo quello che è scritto sulla Haggadah. Che è cosa? Cosa è? È semplicemente lo stesso Kiddush di ogni seder, poi si aggiunge anche la dicitura di Shabbat, è scritto dentro. Anche sabato sera è lo stesso Kiddush. C'è l'Avdalah, ma non è distinto. Non è un bicchiere per Kiddush e uno per l'Avdalah. Sullo stesso calice di vino, che è il primo dei quattro bicchieri, che è lo stesso bicchiere del Kiddush, si dice il Kiddush di Pesach e l'Avdalah per dividere tra Kodesh le Kodesh, tra il santo di Shabbat e il sacro del Moed. È tutto incorporato nella Haggadah stessa. Dico questo perché molti si pongono queste domande senza sapere che è già scritto. Divido non tra il sacro e il assolutamente normale, per questo è importante Moed, guardare nella Haggadah, perché la formula dell'Avdalah è un po' diversa, certo. Un pochino diversa, ma fa parte del Kiddush. Sì, certo. Nel Kiddush si aggiunge anche l'Avdalah. Si guardano le candele che si sono accese per Moed, per il Morea Esh, per la Berakha della luce, senza fare un'altra candela apposta per la luce come normale sabato sera. Nel Seder, il Kiddush del Seder è anche il primo dei quattro bicchieri, sempre, è quello del Kiddush effettivamente, e in questo caso è anche quello dell'Avdalah. No, però come tempo fai molto dopo. Fa niente. No, però è così. No, anzi, no, farlo giusto. Alle 7 no, alle 9. Giusto, giusto. Allora, perché comunque bisogna aspettare l'uscita dello Shabbat. Comunque senza aver separato. Comunque bisogna, sì, non c'è problema. Ah, okay. Comunque bisogna aspettare l'uscita dello Shabbat. Tra l'altro, come ogni sabato sera nel corso dell'anno, noi facciamo un brano di Avdalah recitato all'interno della Amidah. Sì. Atachon Antanu o Ataiv Dalta. Anche nell'Arvit di Moed, di sabato sera, noi aggiungeremo un pezzo che Vatodienu è un altro brano, ma simile, sempre per Avdalah nell'Arvit. Quindi già da Arvit abbiamo fatto l'Avdalah nell'Arvit, quella recitata. E quella sul calice la facciamo insieme al Kiddush nel primo bicchiere del Seder, che è il bicchiere del Kiddush e dell'Avdalah in quel caso. Torniamo alla ricerca del Chametz. Sono partito da questo perché anche sulla ricerca del Chametz bisogna aprire la Agadah. La Haggadah, normalmente, quasi tutte le edizioni di Haggadot iniziano da dove? Dalla, non dal Seder, dalla ricerca del Chametz. E lì c'è scritto, prima di fare la ricerca del Chametz, si recita la seguente Berachah. C'è una Berachah che si recita prima di iniziare la ricerca del Chametz. Ora, bravissimo, bravo Piero. La bracha è Asher Kideshanu, Baruch Atah, eccetera, Asher Kideshanu, Mitzotah, Vetzivanu, al Biur Chametz. Cosa significa Biur? Biur non vuol dire la ricerca. Tu fai la bracha prima della ricerca, ma Biur vuol dire eliminare. Perché la ricerca non è una mitzvah di per sé. La mitzvah è la ricerca per poter eventualmente eliminare quello che si trova. La mitzvah stessa è l'eliminazione. E per eliminare i chachamim hanno istituito che bisogna fare la ricerca. E la berachah precede anche se non è sicuro che trovi qualcosa. Questa è un'eccezione dove esiste una berachah su una insicurezza, su un dubbio se si troverà o meno. Perché la mitzvah non è di trovare, la mitzvah è di cercare. Non c'è un obbligo di trovare. È vero che usiamo mettere 10 pezzettini... No? Questa è una cosa secondo la Kabbalah. È una convenzione. È una convenzione tra virgolette, sì, no, cioè però... abbiamo l'usanza di mettere i 10 pezzettini, ma... Però li hai messi tu, non li hai trovati. Esattamente, ma anche se non dovessi metterli, non è un obbligo assoluto metterli. Anche se non dovessi metterli, la berachah si fa e la berachah di nuovo è volta anche al bruciare il chametz che si farà l'indomani mattina. Lì non si ripeterà la berachah. La berachah che abbiamo fatto adesso, biur, eliminare il chametz, varrà anche per l'eliminazione vera e propria fisica, il bruciare il chametz che si farà l'indomani mattina entro l'orario in cui non si può più mangiare il chametz, come vedremo nella prossima. Ora, sì? Non mettere nemmeno appunto i pezzetti perché sì. La berachah teoricamente sì, abbiamo l'usanza di metterlo, però sì. Non è uno non, ricerca, non sul trovarlo, non parte come obbligo sì. Assoluto. La berachah è per la ricerca, di nuovo, sì, per l'eliminazione, per la quale c'è anche la ricerca, cioè l'obiettivo è un... della stessa. Esatto. Scusate. Sì. E se fosse Shabbat? Se, allora, nel caso in cui, non è quest'anno, però capita ogni tanto, adesso mi è venuto. Capita ogni tanto che lo Shabbat viene il 14, cioè la vigilia di Pesach, allora in quel caso la ricerca si fa giovedì sera invece di venerdì sera, però, l'eliminare il Chametz, quello che rimane, perché Shabbat mattina cosa si fa? Si prega presto. E si fa la seudà, si mangia almeno il pane, perché si deve mangiare il pane di Shabbat, non è ancora Pesach. Si mangia il pane, le rimanenze si butta nel water. Però bisogna assicurare che già da prima Shabbat, oltre a quella halal lì, non ci sia niente di chametz a casa, perché così si entra in Pesach. Comunque, quando sarà quello, faremo la lezione apposita. E c'è un libro che si chiama Erev Pesach Shechal B'Shabbat, un libro così, che è solo sulle halachot di vigilia di Pesach che cade di Shabbat. Comunque, allora, tra la berachah e la ricerca non si parla, non si interrompe con la parola. E se si è interrotto prima di iniziare la ricerca, allora bisogna rifare la berachah. E per tutta la durante ricerca? La ricerca si può parlare solo di ciò che riguarda la ricerca, tipo aiutami a spostare questo divano, o guarda, oppure puoi anche delegare altri a fare la ricerca insieme a te, quindi tu cerchi qui, io cerco qua. Queste cose che sono inerenti alla ricerca del chametz non sono considerate una interruzione, ovviamente. Come quando fai la mozia e dici, certo. Per favore passami il sale, non è un'interruzione, perché è sempre inerente alla berachah. Se invece chiedi che ore sono? Come ha fatto la Roma ieri, allora è una interruzione, bisogna fare la berachah. Ok. Mila. Comunque, se qualcuno ha già iniziato a fare la ricerca e poi ha interrotto con la parola, anche se con questioni non inerenti alla ricerca, non rifà la berakha. Solo se non ha proprio ancora iniziato e ha interrotto proprio, allora rifà la berakha. Ma se ha già iniziato, quindi la berakha è già stata associata all'inizio della mitzvah, no, anche se ha interrotto successivamente, non ripete la berakha. Ok? Se uno ha iniziato a fare la ricerca, si è accorto, oh, non ho fatto la berakha, come deve fare? Se ancora non ha concluso, fa la berakha a quel punto, perché ancora deve... Ovviamente le brachot in quasi ogni caso, come abbiamo studiato tante volte, precedono la mitzvah, in questo caso precedono il continuo della mitzvah, quindi va bene. Non si fa la berakha di Shecheyanu nella Bdikat Hametz, perché no, una cosa che viene una volta l'anno, dovremmo fare la berakha del Shecheyanu sul Biruch Hametz. No, perché? Perché varie motivazioni. La prima cosa è una mitzvah volta ad una distruzione. Eliminazione di cibo che sarebbe il cibo della persona. E allora non è giusto dire Shecheyanu, che è una mitzvah, che è una berakha, per, non che non è una gioia, che la mitzvah è una gioia, non è una cosa triste o di lutto, mai sia. Però comunque vai a bruciare del cibo, non fai Shecheyanu su questo. Non è un concetto di godimento quando invece... Sì, cioè non è cibo, sì, che sì, qualcuno sì, potrebbe certo sfamarsi, tu lo certo bruci e dici Shecheyanu, no. Seconda cosa, in realtà, anche se abbiamo detto che il tempo della Bdikat Hametz è la sera prima di Pesach, la sera del 14, ma non è così in maniera tassativa. Perché? Perché qualcuno che lascia la casa prima di questa sera, entro 30 giorni prima di Pesach, fa la Bdikat Hametz. Allora non è la Zman Hazeh, Shecheyanu è una mitzvah particolare di un tempo esatto e specifico. Di quel momento. È arrivato il Moed, si fa Shecheyanu. Non una cosa che potrebbe essere anche in un altro momento, ok? Quindi per questi motivi non si dice Shecheyanu. Se qualcuno deve controllare più case, basta dire una berakha quando inizia a controllare la prima casa o il primo locale, e poi in mente tiene l'intenzione che questa berakha varrà anche per le altre successive ricerche che farà, e poi farà la ricerca, perché effettivamente la ricerca va fatta anche nel negozio o eventuale posto di lavoro, dove bisogna anche lì, se è di nostra proprietà o nostra comunque gestione, bisogna vedere che non ci sia chametz e controllare effettivamente la ricerca del chametz. Allora, come ho detto prima, si può anche delegare altri che sono presenti a fare la ricerca. Anche loro sentano la berakha e rispondano amen e aiutino a fare la ricerca. Il capofamiglia la fa? Normalmente il capofamiglia, sì. Se lui stesso anche partecipa. Se lui stesso solamente delega e non partecipa, allora il delegato fa la berakha. Ok? Così è scritto nell'Alaha. Ragazzi o persone che stanno magari per un periodo breve all'estero o hanno in affitto una piccola stanza insieme o quello che è, fanno l'Abdikat Hametz e il Biur Hametz con la Berakha, tutto come normale. Come ho detto prima, chi lascia la propria casa o il proprio appartamento e che torna a casa dei genitori o quello che è prima del 14 di Nisan, anche fa l'Abdikat Hametz, se lascia entro 30 giorni, da prima di Pesach, cioè da Purim praticamente, senza Berakha però. Se non è la sera stessa, deve fare la ricerca del Hametz, ma senza Berakha. Ora, come dicevamo prima, abbiamo l'usanza di mettere piccoli pezzettini di pane, è bene che non siano grandi, meno di 18 grammi ciascuno, e coprirle con qualcosa che le... Carta stagnola o quello che sia, l'importante è che non lasciano briciole per la casa. Quando si usa la carta stagnola bisogna anche essere attenti l'indomani quando si brucia il chametz, o di aprirlo o di fare in modo che possa davvero bruciarsi, perché spesso si lascia nella carta stagnola, diventa un arrosto di briciole, ma dentro potrebbe anche non bruciarsi. Scusa Rabbo, possono essere meno di 10 pezzi? Possono essere, allora, Possono essere quanto vuoi. No, dire, però siccome secondo la Kabbalah l'usanza è di mettere 10 pezzi. Okay. Però non è me'akev. Non è me'akev significa non è tassativo. Okay. Ok? Perché vuoi mettere meno di 10? No, mi è capitato però. Ah, no, non c'è problema. Okay, come ho detto prima, anche non mettendoli per niente, la mitzvah non è questa. La mitzvah è quella della brachà con la ricerca. Di davvero cercare. Fare la ricerca del chametz. Perché ho poco, era rimasto poco e non veniva. No, no, non c'è problema. Un veloce, se non è lungo, sì? Riferimento, collegamento al concetto cabalistico del 10, il collegamento del 10. Se dici, una perché cosa è proprio 10, dici? In generale 10 è sempre sì, 10 è sempre un numero completo. Per questo abbiamo 10 Aseretà di Brot, 10 Mamarot, che il mondo dei 10 Sefirot. Sì, sì. Tutto legato a questo. Quando termina la pure io volevo dire prima della bruciatura oppure quando... No, la ricerca termina quando finisci di fare la ricerca. Ma tu dici entro quando devi finire? No, nel senso che praticamente se poi io dopo che ho cercato, no, insomma, sì. Dico vado a ricontrollare ancora. Puoi farlo. Dopo che hai recitato? Dopo che hai detto la no, lui dice, ha fatto la ricerca, poi dopo un'ora si dice, forse lì non ho contratto bene. Vai, rifai. Ah, però non è che c'è una berca... No, non rifai non la berca. No. Però c'è un tempo entro il quale devi finirla. Sì. Questo. Non è che puoi controllare poi, ti alzi la mattina... Devi iniziare la ricerca nell'orario in cui abbiamo detto. Però c'è un tempo anche. Poi quanto dura... Non c'è un limite, può durare anche fino alla mattina. Quanto dura, dico, in maniera Quindi di consecutiva. Poi, ho dimenticato e vado sì, a oppure se uno ci mette 5 ore a controllare. Ancora prima di bruciare. Allora, adesso un'altra halakha e poi racconto una storia che riguarda questa cosa. Se tu hai messo tot numero di pezzettini, per esempio 10, e ne trovi 9, non devi rifare tutta la ricerca per tutta la casa per trovare quel decimo pezzo. Uno si può appoggiare al bitul, all'annullamento dichiarato, la dichiarazione di annullamento del chametz che si recita alla fine della ricerca del chametz e non è più considerato in suo possesso perché dissoci il possesso, eccetera, il bitul, l'annullamento lo consideri polvere della terra, ma è bene essere prima più preciso, anche se necessario scrivere su un pezzettino di carta dove è stato posto ognuno dei pezzettini per non incorrere in questo problema. Questo è un consiglio pratico. E si usa, dopo che si è fatto la ricerca, raccogliere eventuali pezzettini che si sono messi ed eventuali chametz che è stato trovato, raccogliere insieme in una bustina, meglio di carta, perché questo è volto a l'indomani essere pronti per la bruciatura del chametz. Ora si racconta che il Alter Rebbe, l'autore del Tania, il fondatore della scuola Chabad, Rabbi Shneur Zalman, il primo anno che è venuto a casa per fare la ricerca del chametz, dopo che è diventato un allievo del Magid di Mezrich, quindi dopo che è entrato nel chassidismo, è venuto a casa per Pesach e ha iniziato a fare la ricerca del chametz. Ha preso la candela, come si usa? Non ho detto all'inizio, bisogna fare la ricerca alla luce di candela, non candela di... Ho detto, candela però significa non torcia. Torcia logicamente significa una candela che ha più stoppini, come quella dell'Avdalah, non va bene, deve essere unica candela. Ha iniziato a fare la ricerca e ha fatto la ricerca, gli è durata tutta la notte. E la casa era di una sola stanza. Perché? Perché ha fatto la ricerca anche nell'anima. La ricerca del chametz a livello spirituale significa cercare dentro di sé e annullare e bruciare dall'interno di sé il bitul. Il concetto esattamente del bitul. Il chametz indica l'ego, il proprio io che è troppo lievitato, e il bitul è la bruciatura e la ricerca del chametz. Lui ci ha messo un'intera notte, allora chiaramente noi non siamo a questo livello, però per spiegare che quando si fa la ricerca del chametz non è solamente l'aspetto materiale della questione, ma anche è un momento di teshuvah. In generale c'è scritto che Nissan è, per molte cose è una contrapposizione a Tishri, Tishri, quando noi abbiamo Rosh Hashanah Kippur, che è la stagione della Teshuvah, Nissan in un certo senso è anche una stagione di Teshuvah, ma tutto in maniera molto più gioiosa, in maniera molto diversa, ma è sempre il concetto, è il concetto del bitul, il concetto del togliere il chametz, è sempre la stessa idea di venire via dallo Yetzer Hara e venire più vicino ad Hashem. E anche nella bruciatura del chametz è la stessa cosa, la bruciatura delle klipot, in senso spirituale, tutto ciò che è negativo. Sì? Una cosa stupida, ma ci sono tanti che mettono il chametz fuori dal barcone. Allora, se noi abbiamo del chametz, che sappiamo della sua esistenza, e abbiamo un luogo specifico dentro casa o sul terrazzo o quello che è, dove lo chiudiamo per la durata di Pesach, lo possiamo fare, dobbiamo indicare sopra, okay, questo è chametz, magari meglio se è chiuso a chiave, comunque con uno scotch, con qualcosa è chiuso, è scritto chametz, non toccare, e questo includere nella formula della vendita del chametz. Quindi non è in tuo possesso durante Pesach, la vendita del chametz esiste anche proprio per questo. Se uno può evitare di non avere... È facoltativo scrivere anche il luogo. Sì, non è obbligo, no, non perché è... questa delega è una delega abbreviata. Sul contratto stesso Io l'ho visto. Quello anche è scritto molto più... C'è scritto scrivere anche dove sta... Sì, se è possibile è bene indicare. Ma no, come dici tu è facoltativo, non è un obbligo assoluto. Il terrazzo chiuso. Lo chiudi, e se qualcuno può evitare di vendere chametz proprio, come pasta, cose che sono proprio chametz assoluto, è meglio. Però anche quello può essere incluso nella vendita del chametz ed rientra nella regola senza problemi. Ha bisogno specifico.